va ora in onda la registrazione della conferenza stampa dell'inaugurazione della mostra fotografica Tra l'immaginario dell'orientalismo e la realtà, curata da Davide De Luca, dal Fondo Vincenzo Rosati della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo. A tutti buon ascolto. Allora, ci troviamo presso l'antica Filanda Fionaria di Atri con Davide De Luca, curatore della mostra di Lennert e Landrock. Davide De Luca, appassionato di fotografia, nel mondo della cultura, inserito anche con l'area marina protetta del Cerrano, che ci spiegherà un pochettino questa mostra. Sì. Allora, la mostra è dedicata ai fotografi Lennert e Landrock che hanno avuto uno studio fotografico a Tunisi dal 1904 al 1914 e poi successivamente si sono trasferiti dal 1924 al 1933 al Cairo. Questo studio fotografico si caratterizza da un lato per aver prodotto delle fotografie creando delle messe in scena per rendere visibili l'immaginario degli occidentali proiettato sulla popolazione colonizzata. Ma dall'altro lato la loro produzione fotografica si caratterizza anche per avere un taglio più documentale che ci mostrano gli usi e i costumi delle popolazioni colonizzate. Queste fotografie sono appartenute all'ingegner Vincenzo Rosati, il quale ha trascorso una parte della sua vita ad Atri e per questa ragione che l'amministrazione comunale ha deciso anche di supportare questa iniziativa per far conoscere meglio la storia contemporanea di Atri. Davide, ricordiamo Vincenzo Rosati, che è stato praticamente l'ingegnere Vincenzo Rosati, fondatore della scuola, mi dicevi, della scuola Arti e Mestiere di Atri, scuola dalla quale sono usciti molti talenti tuttora, sì, diciamo così, noti. L'ingegnere Rosati è stato una figura eclettica perché oltre a essere stato direttore di scuole di arti e mestieri ad Atri, in altre località d'Abruzzo, ma anche a Catanzaro e poi ha culminato appunto la sua carriera a Tripoli, dove appunto ha diretto una scuola di arti e mestieri su richiesta dell'allora Ministero delle Colonie, è stato anche un brillante archeologo ed un brillante commissario alle belle arti. Inoltre ha fatto anche della progettazione edilizia, possiamo ricordare la sopraelevazione della Torre del Cerrano, e poi nell'ultima parte della sua vita è stato anche un grande pittore. Fortunatamente tutti i suoi materiali sono conservati dalla Biblioteca Delfico di Teramo, che è partner istituzionale di questo evento. Ecco, com'è nata anche questa mostra? Diciamo, sicuramente dalla tua passione, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a realizzarla? Allora, innanzitutto io ho studiato il Fondo Rosati quando ho conseguito la laurea in Storia e Catalogazione della Fotografia. La passione è nata comprendendo quanto fosse importante far capire il valore di Vincenzo Rosati, ma anche far capire come la fotografia possa essere utile anche per altre discipline, come ad esempio l'archeologia oppure la ricostruzione della storia dell'istruzione pubblica, perché sono materiali molto particolari ed è un fondo molto eterogeneo che ha anche queste foto legate appunto al mondo del Nord Africa, ma anche tutta una serie di foto legate alla documentazione artistica come Romualdo Moscioni. Benissimo, ci troviamo anche in una splendida location, anche con in questa antica filanda, insomma, tu hai qualche notizia di questa riscoperta di questo antico... Sì, io ho scelto comunque questo posto perché è legato al mondo del lavoro e quindi in qualche modo si abbina alla seconda sezione della mostra. L'antica filanda Fioranelli è stata fondata nel 1936 ed era in qualche modo figlia della transumanza, perché proprio grazie alla grande presenza delle greggi si era sviluppata l'industria tessile legata alla lana. Sì, diciamo pure che l'industria tessile è stata, diciamo così, l'industria trainante del periodo della rivoluzione industriale, quindi insomma Bene, questo poi ci sarà adesso, ci sarà una, diciamo così, un incontro dibattito, ci spiegherai come si articolerà. Certo, l'incontro presenterà le due sezioni e sarà mia cura spiegare sia le posizioni di chi è in qualche modo contrario a questo tipo di produzione fotografica, ma anche illustrare invece gli studiosi che in qualche modo l'hanno rivalutata. Va detto che Lendrock e Lenert non sono mai stati studiati in Italia, mentre in ambito francese oppure tunisino hanno ricevuto molta attenzione. Per farvi capire il valore di questi due fotografi, basta sapere che il loro archivio fotografico è conservato al Musée dell'Elysée a Losanna. Senti, Davide, hai altri progetti per il futuro? Allora, per il futuro sì, ho sia in mente di curare nuove mostre, ma anche di presentare nuove attività didattiche all'interno del Parco Marino e comunque di continuare ad impegnarmi sul fronte della fotografia, magari proponendo anche qualche istituzione che in maniera più costante dia una valorizzazione di questo importante medium che ha dominato il XX secolo. Quindi Davide, noi ti ringraziamo, ti facciamo i migliori auguri per questa mostra e a risentirci la prossima volta. Vuoi salutare gli ascoltatori di Radio Triweb e Radio Cerrano Web? un saluto a tutti gli spettatori e spero che veniate a vedere la mostra. Seguite la radio. Grazie. Prego. Ci troviamo all'interno dell'antica Filanda Fioranelli con l'assessore Felicione, sempre sensibile a mostre e nuovi eventi culturali ad Atri. È una mostra originale, direi, soprattutto perché arriva da un fondo importante di un noto, diciamo, personaggio, oserei dire così, che è Vincenzo Rosati, l'ingegnere Vincenzo Rosati, un uomo poliedrico, non solo ingegnere, fondatore della scuola di arti e mestieri e direttore qui in Atri, ma poi archeologo, insomma, fotografo, pittore, insomma, un personaggio importante che ha custodito. Che ha custodito un patrimonio artistico fotografico importante, grazie alla Biblioteca Delfico di Teramo, che poi ne è custode, insomma, di tutto il patrimonio Rosati. Stasera possiamo ammirare comunque uno spaccato di due fotografi, diciamo, che hanno avuto una loro esperienza decennale dal 1904 al 1914 in Oriente. Hanno portato, questa sera avremo l'opportunità di conoscere, insomma, i modi di vivere, gli ambienti, i costumi di Tunisi, insomma, di un paese a noi lontano, ma che comunque ci mostra, insomma, quello che erano appunto i costumi di quell'epoca. Questa scuola, ricordiamo, di arti e mestieri che ha sfornato tantissimi talenti, ma anche grandi maestri artigiani ad Atri. Non solo, la scuola, io dico sempre, Atri è una città è una madre della cultura. Oggi finalmente ha ripreso quel ruolo che a lei compete, che è quello dell'istruzione. La scuola di Atri è una delle più importanti della regione Abruzzo, lo è stato in passato, lo è ancora, e grazie a questa, la scuola di arte e mestieri, una delle prime scuole qui in Abruzzo di arte e mestieri, appunto la città di Atri ha avuto grandi uomini nel mondo dell'artigianato, del legno, dell'intarsio del legno, del marmo, del ferro battuto, insomma, sono tanti gli artigiani di questa città che hanno veramente dato lustro al mondo dell'artigianato. Senta, per quanto riguarda la programmazione estiva ad Atri, vogliamo ricordare qualche evento in programma particolare? Partirà sabato prossimo una mostra tra l'Italia e la Cina, ecco, tra l'Occidente e l'Oriente, quindi tutto questo rientra comunque in una pianificazione che quest'anno ci siamo dati con Still of Peace, che è appunto il dialogo culturale tra l'Italia e un paese del mondo. Sapete tutti che abbiamo iniziato con il Pakistan, poi la Spagna, la Francia, e quest'anno ci apriamo alla Cina, quindi un paese dell'Oriente molto, molto, molto grande, importante. E quindi avremo artisti sia cinesi che italiani che presso le cisterne romane del Palazzo Ducale, presso il Museo Capitolare, appunto avremo modo di apprezzare grandi artisti che esporranno fino al 3 settembre le loro opere. Non è solo un dialogo culturale con l'arte contemporanea, ma è anche con il cinema cinese. Avremo la possibilità possibilità di ammirare 6 pellicole in lingua originale presso il chiostro della cattedrale e poi tanti altri appuntamenti importanti con l'UNESCO, perché non va ricordato che la Cina è uno dei paesi con i siti UNESCO più numerosi al mondo. Ok, allora ringraziamo l'assessore Fediccioni e ci sentiamo alle prossime edizioni di Radio Atri News. Grazie. Io in qualità di Presidente di Italia Nostra porgo l'obbligo di ringraziare il lavoro di Davide, che da anni con la nostra associazione propone questo tipo di percorso storico, fotografico, e devo dire che quest'anno veramente il lavoro che hai fatto, Davide, è veramente eccezionale per due ordini di motivi. Uno strettamente mio personale, perché ho vissuto in questi luoghi negli anni 60 e dunque per me rivedere queste foto, anche se sono datate ovviamente, però le atmosfere sono quelle. Dunque bravo Davide che hai fatto questa ricerca, che è molto istruttivo e educativo, e anche per un altro tipo di motivo. Oggi che stiamo attraversando un periodo sugli immigrati e quanta gente sta arrivando in Italia per diversi motivi, per la guerra e per motivi economici, che è una bruttissima parola definire immigrati per motivi economici, gente che non riesce a sbarcare in un lunario. A me mi capita spesso di dire: ma cosa farei io al posto di queste persone quando discutiamo e litighiamo? Ecco, questo è un affresco di queste civiltà e, credetemi, anche dell'umanità che hanno questi popoli. Io ho vissuto in questi luoghi e sono di un'accoglienza estrema. Hanno poco, ma quello che hanno lo offrono, credetemi. E oggi vedere quello che sta accadendo, e perciò Davide, ancora un grazie per il lavoro che hai fatto, e credo che in questi giorni porteremo persone qui a visitare la tua mostra, che onora sia il lavoro che hai fatto e anche a noi Italia Nostra, che questo luogo in cui stiamo questa sera è stato anche un lavoro certosino di Italia Nostra, che per anni si è battuto per recuperare i materiali industriali dell'epoca che voi vedete. È un lavoro enorme che ha fatto chi mi ha preceduto, prima di me, Tonino Mutoschi, che è qui infaticabile, che ha rincorso la proprietà. Dunque anche questo luogo è opera di Italia Nostra, Davide. Sì. Come il WWF che sta ad Atri sull'oasi di Calanghi. Tu da poco che vivi con noi, ma già in due occasioni stai dimostrando di avere delle idee che possono aiutare la nostra associazione e trasmettere alle nuove generazioni, soprattutto attraverso queste immagini, che cosa vuol dire rappresentare la realtà di un popolo che è nostro amico e nostro fratello. Prego Davide, a te la parola. Allora, io finisco qua. Innanzitutto voglio spendere due parole sulla scelta dell'antica Filanda. Effettivamente l'ho scelta per dare continuità all'azione di recupero e valorizzazione portata avanti Italia Nostra insieme al WWF e con la collaborazione dell'amministrazione comunale, perché io mi occupo prevalentemente di età contemporanea e mi sono accorto che c'è ancora poca attenzione su questa parte della storia che riguarda Atri, che è in realtà una storia veramente notevole. Prima si è accennato anche a Vincenzo Rosati, il quale ha avuto le fotografie che ho esposto qui. Purtroppo ho dovuto scegliere di fare delle riproduzioni grazie al sostegno dell'amico maestro Tracanna, perché gli originali erano troppo fragili ed erano comunque piccoli, quindi non erano idonei all'esposizione. Per me vengono sempre prima le ragioni della tutela e dopo le ragioni della valorizzazione. Questa mostra vuole essere un atto di valorizzazione doppia: da una parte, attraverso un evento si apre appunto questo monumento archeologico industriale, e dall'altro si dà anche possibilità di vedere queste fotografie che non sono molto pubblicate, perché in Italia non c'è un grande interesse per la storia coloniale, essendo una parte poco brillante della nostra storia, viene un po' accantonata. Questa mostra intende indagare soprattutto le potenzialità del medium fotografico, per cui ho organizzato la mostra in due sezioni. Da un lato troverete i nudi e dall'altro troverete in questa stanza tutti gli altri temi trattati dallo studio Lennert & Lendrock, che ha operato a Tunisi dal 1904 al 1914, poi la loro attività è stata brutalmente interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, sono stati cacciati dalla Tunisia e infine hanno ripreso la loro attività al Cairo dal 24 al 33. Però queste fotografie, da un lato, sono delle produzioni dove si vede l'uso creativo della fotografia, soprattutto nel nudo, perché in realtà sono delle messe in scena, cioè non sono delle scene reali, ma sono tutte delle ricostruzioni fatte ad arte dai fotografi, soprattutto per aggirare anche l'uso del velo islamico. Però quelle foto, da un lato, sono foto d'arte perché seguono i canoni estetici, però possono anche essere considerati in qualche modo dei documenti sulla mentalità degli occidentali che hanno proiettato sulle popolazioni locali. Però vi posso dire, confrontando l'opera di Lennert & Lendrock con gli altri fotografi coevi, è che loro in qualche modo hanno esaltato la bellezza del popolo tunisino. Ci tengo a dire che sono foto che raccontano la Tunisia. Noi, se leggessimo solo i documenti allegati alle fotografie, saremmo indotti a credere che queste siano fotografie legate al mondo della Tripolitania, che era stata una nostra colonia. In realtà io ho trovato un catalogo dove sono riportati i titoli delle fotografie e si afferma in maniera inequivocabile che sono foto legate alla Tunisia. Però le parole di Rosati sono in parte giuste, perché queste altre fotografie invece ci mostrano come la fotografia possa documentare anche il mondo del lavoro. Vi posso dire che la fotografia coloniale tende a denigrare i popoli colonizzati non mostrando mai gli uomini al lavoro. In realtà, studiando le foto di Lennert & Lendrock, loro raffigurano il mondo del lavoro maschile, che invece viene completamente accantonato da tanta altra fotografia coloniale. Ma poi vediamo anche un'adesione profonda, in qualche modo, al mondo tunisino, per il fatto che nel catalogo di Lennert & Lendrock non c'è quasi nessuna raffigurazione degli occidentali e non sono neanche raffigurati quei tunisini che in qualche modo si sono integrati con i colonizzatori. Viene sempre raffigurato in qualche modo il popolino. Però non ne viene cantata la povertà in maniera patetica, ma viene raccontata comunque con dignità e con coraggio, come possiamo vedere in certe figure di questa sezione. Lennert & Lendrock comunque hanno raccontato una Tunisia più autentica, per esempio. I fotografi che andavano nel Nord Africa oppure nel vicino Oriente andavano alla ricerca degli edifici famosi, quelli già conosciuti. Invece, per esempio, Lennert & Lendrock ci fanno vedere anche, per esempio, dell'architettura minore, come è il caso di quell'edificio a corte che si trova all'oasi di Nefta. L'ho potuta identificare con sicurezza perché è una delle foto pubblicate sul catalogo del 1924. Ma questi fotografi poi in un secondo tempo hanno anche documentato tutto il patrimonio archeologico del Nord Africa, per cui sono delle fonti queste fotografie anche per valutare i danni che sono accaduti recentemente. Riguardo ai problemi politici di quell'area. E da una parte, comunque, questa produzione fotografica è stata appunto criticata perché è vista come una forma di violenza coloniale, in quanto è lo sguardo degli occidentali che crea molte di queste fotografie. Però ci sono anche alcuni storici della fotografia che hanno visto questa produzione mettendola nel contesto europeo, per cui per esempio l'uso delle modelle, che per Alulla crea delle fotografie false, fasulle, in realtà si è vista nella tradizione occidentale una cosa abbastanza normale. A partire dal XVI secolo nelle arti sono stati ampiamente usati sia le modelle che i modelli, per cui è una produzione sicuramente molto complessa. Io la definisco polisemica perché queste fotografie ad un occidentale possono dire qualcosa, ad un algerino o un tunisino dice completamente un'altra cosa, per cui è interessante aver messo a confronto due visioni radicalmente diverse e dare la possibilità a chi fruisce di queste fotografie di farsi un'idea propria, di essere più un momento di riflessione che non un momento di ricezione passiva di questo patrimonio. Grazie. Allora io vorrei ringraziare il Presidente regionale Musiche, ci onora della sua presenza, che è qui con noi, poi ci dirà qualcosa anche sulle attività di Italia Nostra, e l'assessore Felicione, che è molto sensibile, sì. Non è piaggeria, ma devo dire che questo assessore che abbiamo alla cultura, devo dire che sta facendo tante cose, tante iniziative per altri, ed è sempre presente. Dunque noi, anche se ad Atri ci sta un po' un vizietto di considerare chi non è proprio autoctone del luogo, di vederlo come un extracomunitario quasi. Anche se con tutti quei rispetti per gli extracomunitari, però ci sta questa retrocultura, che c'è questa mania. Speriamo invece che nel caso di, anche se politicamente siamo diversi come idea, però devo riconoscere che questo assessore si è dato da fare per parecchie cose ed è sempre presente sulle attività culturali, ha dato veramente un input a questa città che forse meritava da tempo. Io gli do la parola subito, e non è una piaggeria, assessore, che ti sto facendo, l'ho detto anche in ambiti diversi. Ormai so il vostro, insomma. Prego, assessore. Io ti ringrazio per le belle parole che hai, insomma, così profuso in questa sede. Ormai conosco il vostro pensare, quindi da molti anni. Ma diciamo che allora solo una persona, il discorso che voglio dire è che da un po' di anni, da 4 anni, abbiamo iniziato un progetto culturale che apre un dialogo tra l'Italia, tra l'Occidente, un paese diciamo diverso, e poi dico perché diverso. Iniziamo con il Pakistan, quindi poi passammo alla Spagna, l'anno scorso la Francia e quest'anno la Cina, l'Oriente. E la mostra che stiamo facendo questa sera è proprio anche un dialogo culturale tra l'Occidente e l'Oriente, quindi diciamo che attraverso il perché questa idea, perché ogni anno in Atri vi è appunto un dialogo con un altro paese del mondo, attraverso l'arte contemporanea, attraverso il cinema, perché ci sarà il cinema in lingua, attraverso la letteratura tra l'Occidente e l'Oriente, appunto del paese che Atri ospiterà. Quest'anno, come abbiamo detto, si ospita un paese enorme, grande, che è la Cina, un paese a noi lontano e anche, lo guardiamo con un attimo di diffidenza e di paura, ma sappiate che la Cina è il paese più grande che esista, diciamo, un paese asiatico più grande, diventerà ed entrerà tra le potenze mondiali più importanti, uscirà l'Italia ed entrerà la Cina tra gli 8 paesi più importanti, più industrializzati del mondo, quindi lo dobbiamo iniziare a conoscere non con diffidenza ma accostandoci attraverso il dialogo, perché è il dialogo che poi attraverso la conoscenza, il dialogo che si conosce la persona, diciamo così, tra virgolette diversa, e si possono apprezzare i contenuti di un popolo. Quello che stiamo facendo questa sera è comunque un altro dialogo, come dicevo poc'anzi, tra l'Occidente e l'Oriente, in un luogo che è stupendo, straordinario, come quello dell'antica Filanda Fioranelli, che è stata qui inaugurata nel 1936, ma che comunque ha un'archeologia industriale di fine 800. Grazie alla, diciamo, poi a quelli che sono, perché se Atri ha questo patrimonio straordinario tenuto, diciamo, bene, ben conservato, e questo ne è anche un esempio, una testimonianza, perché vi sono delle persone che comunque, gli uomini, figli di questa città, che hanno un animo, diciamo, conservatore molto importante, perché Atri, mi dicono oggi, c'è una polemica in atto che deve essere il borgo più bello d'Italia, il borgo autentico, il borgo sono tutti un associazionismo, i borghi più belli d'Italia, i borghi autentici, le bandiere arancioni, ma Atri, dimentichiamo che è una città d'arte, ed è il titolo più grande che una città possa avere, affidato, datogli dal Ministero dei Beni Culturali, e la sovrintendenza nel custode per eccellenza. Quindi non ha bisogno di sotto-associazionismi per valorizzare questa città. Questa città è stata insignita negli anni del più grande riconoscimento che si potesse avere, ne è comunque madre di cultura, ne è la madre della cultura, perché non lo è solo per la storia, per l'archeologia, ma lo è anche per l'istruzione. Perché, e qui ci entra Vincenzo Rosati, perché il fondo Rosati donato alla Melchiorre Delfico di Teramo, alla biblioteca Melchiorre Delfico, sono le opere che stiamo vedendo e ammirando questa sera. E Vincenzo Rosati, che ha acquisito tutto il patrimonio fotografico e che stiamo ammirando e vedendo questa sera. Tra l'altro, quello è stato frutto della lungimiranza dell'allora direttore della Delfico, che era Monsignor Giovanni Muzzi, il quale aveva fiutato l'ipotesi che il fondo andasse fuori dall'Abruzzo e andasse smembrato. Invece, attraverso un'opera di sensibilizzazione, è riuscito a farsi donare tutto il fondo e quindi è rimasto integro, conservato, ed è rimasto sul nostro territorio, e è una ricchezza. Ma Vincenzo Rosati è un uomo anche di questa città, è una figura molto importante, perché è un ingegnere che ha fondato la scuola di arte e mestieri di Atri, che ha formato tanti artigiani che poi sono stati un motore importante, l'artigianato in questa città, in tutte le sue discipline, ha dato fior fior di artigiani. È stato quindi non solo un ingegnere, quindi un direttore di vari istituti, non solo qui nati ma in tutta Italia, ma è stato anche un appassionato di pittura, un archeologo, ha avuto tante peculiarità nella sua vita, che ha soprattutto tese verso il patrimonio artistico e monumentale. Quindi qui ci sta tutto, in questo piccolo scrigno c'è l'archeologia industriale, che è stata appunto rimessa in luce 2 anni fa, nel 2015, quando in occasione delle giornate di primavera del FAI noi entrammo dentro, ripulimmo tutto questo sito, e pensate che poi non è stato studiato questo, ma è stato un caso. Il 2015 era l'anno dell'archeologia industriale. Pensate che il TG1 in prima serata, con le giornate di primavera, fece appunto, mostrò in prima serata Venezia e Atri, appunto, che aveva ridato in luce, rimesso in luce quello che è appunto questa struttura conservata e tenuta scrupolosamente e gelosamente da Italia Nostra e da tanti appassionati di questa d'arte di questa città. Quindi io, che dire, sono contento che quest'anno non è stato questa è un puro caso, ma comunque tutto gira intorno quest'anno, come dicevo poc'anzi, attraverso un dialogo tra l'Occidente e l'Oriente. Ci saranno tante occasioni, vi invito appunto a partecipare, perché sarà inaugurato appunto sabato la mostra Still of Peace tra l'Italia e la Cina. Al Palazzo Ducale ci saranno mostre presso le cisterne romane del Palazzo Ducale e presso il Museo Capitolare, poi ci saranno tutti i lunedì il cinema in lingua cinese presso il chiostro della cattedrale e tanti chiostro del Museo Capitolare, e ci saranno tanti altri appuntamenti. Anche Atri a Tavola quest'anno avrà un piccolo salto tra la nostra arte culinaria locale, e un salto lo farà anche nell'Occidente. Quindi anche questo è stato studiato in tutto quello che è appunto il cartellone estivo di questa città. Io vi invito a partecipare, a stare con noi tutta l'estate, perché gli appuntamenti sono tanti, e comunque sono appuntamenti di valore e di dialogo culturale. Tutto qua, grazie. Caro Presidente Muzzi, allora se ci vuoi tu dare... Cari amici, io sono sempre onorato di venire ad Atri, perché appunto si respira un'atmosfera. Sempre si respira un'atmosfera nelle iniziative, ma anche al passeggiare a vedere la vostra bellissima città. Che sia appunto un'atmosfera particolare, città d'arte riconosciuta, città d'arte e di cultura, lo dimostra appunto l'apertura alle altre culture, compresa appunto questa dell'Oriente, vicino e lontano come la Cina. E quindi questa apertura mentale, questa voglia di confronto è cultura, è fare cultura e crescere nel confronto, riconoscendo le differenze. Quindi ben venga questa vostra dimensione, l'ennesima dimostrazione dell'atmosfera che si vive qui e che viene percepita da un abruzzese che viene per le iniziative che voi fate, in particolare Italia Nostra. Ecco, io devo dire che mi rendo conto che siamo dentro un monumento. Noi siamo dentro un monumento del lavoro di una volta e del lavoro di adesso e del futuro, come appunto il lavoro di Davide testimonia. Noi siamo qui in un sito recuperato grazie a questa azione di, mi piace ribadirlo, sussidiarietà tra il pubblico e il privato, un'associazione culturale, no? E quindi questa azione di sussidiarietà ha portato a rivalorizzare e a poter fruire un sito che altrimenti sarebbe rimasto, come da quello che ho capito, no? Nel degrado, ecco. Invece così riacquista una sua funzione, una funzione di socialità, di produzione di idee e di valore, valore appunto culturale, valore di confronto con... fra l'altro, perdonatemi, tanto per confermare quello che diceva l'assessore, cioè che qui appunto la Scuola d'Arte e Mestieri ha prodotto un artigianato artistico di primissimo rilievo, voglio aggiungere che la famosa stamperia d'arte di Arcangelis di Pescara in realtà era nata qui ad Adre, poi si sono trasferiti a Pescara perché Pescara agli inizi del Novecento era, diciamo, il polo, già cominciava adesso il polo attrattivo, no? Il polo, diciamo, commerciale, industriale e culturale di maggior rilievo, per cui appunto gli stampatori Nicola D'Arcangelo, il suo papà, non mi ricordo il nome del papà, chiedo scusa, si sono trasferiti a Pescara, ma hanno cominciato qui ed era una stamperia d'arte che ha fatto pregevolissimi lavori che adesso sono conservati dall'Università dell'Aquila. Sono stati donati dagli eredi dell'Università dell'Aquila. È una delle rare volte che qualcosa sale dalla Marina ai Monti. Vabbè, mi piace dire questo, ma mi piace soprattutto ribadire e confermare quello che lei diceva. Ora, venendo qui al lavoro di Davide, io devo dire questo. Vedete, noi siamo in un monumento, ma voglio dire, non è la Cappella Sistina, no? Vero? Ecco, allora, noi come Italia Nostra ci teniamo a ribadire che al di là della retorica della bellezza bisogna considerare i patrimoni culturali. Allora vedete anche queste foto che sono state selezionate, studiate, descritte, eccetera. Non è che siano tutte delle opere d'arte, ma sono dei documenti, come ha detto giustamente Davide, sono documenti della non tanto del, diciamo, di valore antropologico, ma non tanto della realtà fotografata, ma quanto della mentalità con cui lo studio fotografico pensava di comunicare al mondo quella realtà. Quindi c'era una visione con gli occhi dell'occidentale, certo, con le tecniche dell'occidentale, con gli artifici, come giustamente è stato detto, no? Cioè le messe in posa, no? Certe situazioni palesemente costruite che non fanno di quella foto un'opera d'arte. Ma l'insieme della documentazione fotografica ci testimonia un percorso, appunto, di valore antropologico, che era il modo di vedere queste realtà apparentemente periferiche, insomma, no? In ogni caso oggetto di conquista da parte dell'Europa. Quindi sono essenzialmente documenti. Allora, se noi ci concentriamo solo, perdonatemi questa sottolineatura, ma mi sembra proprio il contesto giusto, se noi ci concentriamo solo sul concetto di bellezza, allora qui dovevamo eliminare tante di quelle foto, no? Se ci concentriamo sul concetto di bellezza, i documenti, i fondi fotografici e documentari che sono appunto negli archivi o nelle biblioteche, in questo caso la Delfico, no? Che facciamo? Le buttiamo via perché non sono oggetto di bellezza in senso proprio, diciamo, artistico? Io penso che no. Il patrimonio culturale dell'Italia ha dei segmenti che non sono collocabili all'interno del concetto di bellezza, ma sono patrimoni. e fanno parte dell'identità della nostra nazione. Per cui mi piace veramente che nel lavoro di Davide sia stato anche scritto, mi pare, no? Del fatto che la scelta è stata di mettere in mostra anche ciò che non è artisticamente pregevole, perché in ogni caso testimonia nell'insieme, no? Una mentalità e un lavoro che ha caratterizzato appunto l'approccio dei noi europei verso questi paesi esotici, diciamo, ecco. Quindi io veramente mi complimento con la sezione per il gran lavoro di appunto pungolo, diciamo, all'amministrazione. Mi complimento appunto con Davide per il grosso lavoro di scavo. Oh, e poi vedete, un'altra cosa che mi piace del lavoro, oltre giustamente dire il risultato di queste foto è polisemico, per cui diciamo vanno ricercati, cioè vanno visti i vari livelli di significato, ma oltre a questo a me piace pure il fatto di sottolineare un fatto: il vostro concittadino Vincenzo Rosati ha pensato bene di acquisire da quello studio fotografico questo patrimonio. Quindi di nuovo la sensibilità, la lungimiranza, la visione, no, culturale di un cittadino che era, vabbè, era, diciamo, era eccentrico, insomma, cioè, non un'attività, diciamo, polietrica, una grande, insomma, istruzione, molto, però voglio dire, ha avuto l'accortezza, no, di acquisire un patrimonio che non era suo, non era nato qui, va bene, e però ne ha riconosciuto il valore, l'importanza e l'ha salvaguardato. Poi naturalmente l'operazione successiva che ricordava appunto del direttore della Delfico Muzzi, no, l'ha acquisita la Delfico. Io devo dire che la Delfico ha fatto in questi ultimi decenni un gran lavoro, perché qui è menzionato anche il fondo Nardini, ma appunto la biblioteca Delfico ha fatto un gran lavoro di acquisizione non solo di libri, di pubblicazioni, di stampati, ma di archivi di studi fotografici. E quindi gli archivi, in quanto archivi, non è che sono la bellezza, ma sono patrimonio. E questa è una testimonianza più luminosa. Grazie Davide. Bene. L'occasione mi offre l'opportunità di ricordare all'assessore che c'è in atto da parte del comune l'acquisizione per usucapione dei locali. I locali sono di una società immobiliare, dell'Eneo, che ha costituito tante società, tra cui si rientrano pure questi locali. E stava facendo la pratica il geometra Margiovanni, che ha vinto un concorso a Pescara. È una persona, un ragazzo bravo, e quindi sarebbe opportuno dare un tempo specifico a questo Giovanni per continuare la pratica, per acquisire anche il patrimonio di questi locali, che in qualsiasi momento viene, potrebbe dimenticare la proprietà e magari aprire un contenzioso. Non lo fa, però è bene, tanto la pratica costa poco in sostanza. E merito anche l'Italia Nostra, l'assessore ce l'ha ricordato, ce l'ha riconosciuto tante volte, merito nostro, perché se no questo sarebbe stato venduto, tutto smantellato e i locali venduti. Siamo intervenuti noi dopo 12 anni, la sensibilità dell'assessore, in particolare la previsione, ha consentito che questo patrimonio diventasse pubblico. Quindi le diamo atto e perciò lo indichiamo come sindaco. Ma dai, come sindaco. Bene, io un attimo solo, che non volevo, c'entra niente con la mostra. Volevo ricordare ai presenti che il 15 agosto c'è l'altra iniziativa. No, ci sarà ulteriormente sui balconi fioriti. Il 13. Allora anticipiamo, quest'anno anticipiamo. Il 13 agosto ci sarà questa cosa dei balconi fioriti, che oramai sono più di 20 anni che produciamo questo tipo di messaggio. E Atri, dopo questi interventi che ha fatto Italia Nostra, ha sensibilizzato l'opinione pubblica, e se voi girate per Atri vedrete che ognuno ha messo allestito il proprio angolo con dei fiori, e questo è sinonimo pure di sensibilità e di crescita. Dunque ci vedremo il 13 agosto in piazza, e ci sarà anche una sorpresa il 13 agosto, che adesso non vi dico, altrimenti la sorpresa finisce, ma riguarda sempre nell'ambito dell'archeologia. E come dice il mio amico Tommaso professor Antonelli, quando finisce sempre questo tipo di riunione, non ve ne andate perché c'è un buffet. Siamo all'interno dell'antica Filanda Fioranelli con Mimmo Zenobbio di Italia Nostra, estete, grande fustigatore di brutture, che ci farà un pochettino la storia di questo bellissimo pipicio riscoperto poco tempo fa da Italia Nostra. Allora Mimmo, parlaci un pochettino. Allora, la storia nasce più di 10 anni fa, dove il solerte Tonino Mutoschi, che è una macchina operativa di pochi, di Maggior Lena, dove praticamente iniziò il carteggio con la famiglia Fioranelli, perché qui ha operato per anni la famiglia Fioranelli insieme a un'altra filanda, Zacchini. Ci puoi dire un pochettino il periodo di produzione? Il periodo praticamente del 1939, e questa filanda poi ha avuto un seguito fino agli anni 60, dopodiché ovviamente per motivi tecnologici la questione è finita lì, anche perché gli eredi non avevano nessun interesse a poter proseguire questo tipo di attività. Ovviamente doveva poi aggiornare tutto. Questo è praticamente un patrimonio archeologico. Parliamo di archeologia industriale. Ovviamente archeologia industriale. Nel 2015 poi abbiamo finalmente avuto il benestare sia della famiglia, che ha donato questo sito, i macchinari, e il comune di Atri, che ha praticamente concesso anche l'uso di questo luogo dove veniva effettuato il lavoro praticamente della filanda. Dunque, parliamo di filatura e cardatura. Sì, facevano pure materassi ed altre cose, queste qua. E praticamente l'inaugurazione è avvenuta poi nel 2015 per l'occasione della giornata del FAI, e questo sito, questo luogo, ci sono state la bellezza di 2300 visite. Dunque è stato il sito più visitato ad Atri, ovviamente anche perché la cattedrale, il museo e tutte queste cose, è ovvio che sono altra cosa, però già conosciuti. Questo poi, come diceva prima l'assessore che ha ricordato, nel 2015 sull'archeologia industriale il TG1 mise in onda due episodi, uno che riguardava Venezia e un altro questo luogo qui, che può sembrare poca cosa, però è una testimonianza soprattutto per le future generazioni. Questo è il ruolo che Italia Nostra ha inteso quando ha cercato di recuperare questo luogo, per trasmettere come lavoravano i nostri avi. Quante persone impiegava all'incirca questa filanda? Dunque, detta dai familiari, come trasmissione vocale, ci stavano circa 12 persone che si alternavano, che durante il periodo della lavorazione, praticamente la raccolta della lana, venivano i contadini che tosavano le pecore, portavano qui il materiale e avevano poi una contropartita, o in denaro oppure infilati proprio il materiale da poter operare a livello artigianale. Questi nei momenti più salienti, circa 12 persone. Senti, gli eventi, la programmazione che ci sarà qui all'interno della filanda, possibili sviluppi, aperture. Ma noi abbiamo detto che questo luogo si presta molto anche a mini concerti, anche a presentazione di qualche libro, no? Perché rievoca un luogo particolare, che è la storia anche della nostra città. E dunque potrebbe essere utilizzato, oltre ovviamente nel periodo scolastico, ci saranno sicuramente, unitamente col WWF che poi dovrà gestire il sito, ci saranno visite didattiche. Dunque i ragazzi che delle medie e anche le scuole elementari verranno qui, abbiamo già pattuito un accordo con la preside dell'istituto. Nei momenti in cui c'è questa trasmissione rispetto a quello che è la storia di un luogo, dunque verrà utilizzato anche per informare le nuove generazioni. Possono avere duplici effetti questo luogo. Senti, per quanto riguarda Italia Nostra, cosa bolle in pentola per quest'estate? Io vorrei lanciare un appello. Italia Nostra ad Atri, rispetto al numero degli abitanti, è una delle sezioni più numerose. Se si considera che Teramo ha chiuso la sezione per mancanza di novità oppure di persone che si impegnano, perché questo è volontariato puro. Noi lanciamo un appello ai cittadini di Atri e dintorni: iscrivetevi a Italia Nostra. La tessera costa 35 euro l'anno e riceverete mensilmente un opuscolo che informa su tutte le attività di come recuperare il patrimonio paesaggistico e archeologico dell'Italia. Noi operiamo dappertutto. Atri è un po', rispetto a livello regionale, abbiamo più iscritti noi che l'Aquila. Teramo, come dicevo prima, ha chiuso per mancanza proprio di vocazione. Pescara ne ha 120 di iscritti, Atri ne abbiamo più di 50. C'è maggiore sensibilità e partecipazione. Qua c'è stato un lavoro enorme di Antonio Mutoschi, che è una macchina bellica proprio, nel senso di operare sul territorio e di sensibilizzare l'opinione pubblica. Il 15 agosto, come dice, il 13 agosto ci vediamo in piazza e lì ci sarà una sorpresa, oltre alla manifestazione di Balconi Fioriti, il popolo di Atri e non vedrà che cosa è riuscita anche Italia Nostra nel proprio piccolo a recuperare qualcosa, e lo vedrete il 13 agosto. Grazie. Ah, il bosco ti pubblica. Il bosco. Per il bosco. Abbiamo trasmesso la registrazione della conferenza stampa dell'inaugurazione della mostra fotografica Tra l'immaginario dell'orientalismo e la realtà, curata da Davide De Lucca, dal fondo Vincenzo Rosati della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo.